Come sapete, il patto precedente siglato dal ministro Amato, dal sindaco Veltroni e dai rappresentanti della provincia e delle regioni è rimasto sostanzialmente inattuato. Il comune ha fatto quello che doveva fare, tutto il resto è rimasto più o meno sulla carta. Allora, da parte nostra, la volontà è quella di redigere, di scrivere un nuovo patto della sicurezza a Roma, che innanzitutto parta dal controllo del territorio, quindi dal monitoraggio di quelle che sono le presenze di forze dell'ordine, di polizia municipale, di personale in divisa. Poi vedere come affrontare il problema dei campi nomadi. Contiamo di compiere un'operazione per poter ridurre i circa 85 campi, fra quelli regolari, quelli abusivi e quelli estemporanei, chiamiamoli così, che oggi esistono nella città di Roma, per fare in modo che questa realtà venga progressivamente ridotta.